Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Mi trovo nelle Fiandre, a Ghanda. Sono venuto fin qui perché c'è una mostra bellissima che raccomando a tutti di non perdere, dedicata a uno dei più grandi maestri dell'arte fiamminga, Jan van Eyck. Questo che è stato il più importante pittore della prima metà del 400 è anche il responsabile del capolavoro più grande e imponente che la pittura fiamminga abbia mai prodotto, cioè il celebre agnello mistico, cioè la grande pala che si trova nel Duomo di Ghanda, dedicato a San Bavone. La mostra nasce attorno al restauro di questa grande pala. Infatti la parte esterna di questa pala, le due porte del polittico, sono oggi esposte nel Museo di Belle Arti di Ghanda e sono inserite nella mostra dedicata appunto a questo artista. È un'occasione importantissima perché queste parti sono appena state restaurate e soprattutto si possono vedere, diciamo, a misura d'uomo, nel senso che sono state abbassate e nel percorso noi possiamo avvicinarci in modo incredibile. Bene, i risultati del restauro sono eccezionali. Pensate che Van Eyck era così preciso nella realizzazione dei dettagli che, per esempio, nella storia dell'Annunciazione, Maria davanti a un libro, ebbene, il libro è scritto e la scrittura è stata riconosciuta, si tratta di un libro di San Tommaso. E così il committente del polittico, che si chiamava Jan Wes, si trova in una stanza buia, non tanto pulita. E il nostro Van Eyck ce lo fa capire. Perché? Perché in un angolo di questa stanza, attaccata al muro, si vedono le ragnatele. Quindi un gioco di verità ottica in cui naturalmente questo artista fu il più grande maestro, e la mostra proprio tutta dedicata alla grande rivoluzione ottica che Van Eyck mise in campo nei primi anni del 400 nelle Fiandre.